survival. Child stars, you'll listen to my tale triste. As it was told to me by my sister afar. Earth her name, and this is her story. Sister Moon, hear me now, fear my end too soon. My wounds are deep, gaping, unhealing, can't believe, refuse to believe my children have no feelings for me. Ok, ed eccoci qua tornati. Oggi è il 12 dicembre, sono le 19:52, anno 2021, un altro anno de merda. E qui ai microfoni è Palmiro in compagnia di Oistro Slim, Reverendo e Gen Gè. Salve, e... Buonasera. Ciao ragazzi, ciao bimbi. Ciao Slim. Ciao a tutte, ciao a tutti, e sono un po' emozionata quest'oggi. Ciao Palmino. Come sei? Come mai sei emozionato? No, dimmi, cioè, de rubrica questo. Cuori? Problemi miei. Problemi di gripping. clippa tutto. Clippa. Ricordiamo a tutti i nostri radio speaker distanti ma presenti, come ci ricordava un'amica. E no. Reverendo vi diceva che è molto emozionato, sei molto emozionato oggi? Cioè, abbastanza, come mai? Problemi miei, ti ho detto, basta. Ah, okay. No, pensiamo durante la puntata, non così in apertura, dai. Mi ero scordato di questi problemi tuoi. L'apertura fa parte della puntata, no? L'apertura? Va bene. Allora inizio io ad aprirmi. Sono molto emozionato perché oggi, 12 dicembre 2021, alle 7:53, con 53 minuti precisi di ritardo, infatti ancora non sono troppo nervoso né permaloso, sì, vabbè. Festeggiamo un anno dalla nascita dell'arte del vizio. Ehi. E stasera non ci sono né candeline né torte, accendini scarichi, e tra l'altro siamo solo noi quattro stasera. Sì, una delle puntate meno popolate della storia. Davvero. E tra l'altro sono tornato anch'io, ecco, in questa puntata completa. Per aumentare il rincaro di lati negativi. Tra l'altro. Devi starti a casa. Davvero. La musica, c'è Palmiro, ma andiamo a casa. Gli ascoltatori sono aumentati da 6 a 10 e quindi qualcosa di magico è successo. Qualcosa vorrà dire. Ebbene sì, purtroppo siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, l'arte del vizio, dello stravizio quest'oggi, veramente cotti, stracottissimi. Io vedo Slim che c'ha due occhi, Dio va, che gli esplodono. Davvero, Dio va e va con voi. Niente, potete seguirci come al solito su radiowombat.net, ma che ve lo stiamo a dire, però interagite con noi, andate su direttawombat.vado.li. E già ci scrivono, qualcuno da casa ci scrive. E io! Io! C'è semo. Punto, ah, punto, c'è semo. C'è semo.net. E come vi diceva, quindi sul pad della diretta Radio Wombat, oppure ci potete scrivere a fiottole. Tutti quanti, dai. A frittole@gattini.ninja, se non sbaglio. Esattamente. Fantastica mail pratica. Sì. Mandateci anche allegati foto dei vostri genitali. Tra l'altro, sì. Potete fare tutto quel cazzo che vi pare. E... dai, capitano. Capitano, mi hanno soprannominato capitano. Oggi mi stanno prendendo per il culo, capitano, ma mi sento lo stesso a mio agio. Oggi non abbiamo una cazzo di scaletta, tra l'altro Gen Gè è stata nominata redattrice. Salutiamo Maradona. Ciao Maradona. No raga, non si dicono queste cose, sono pericolose, non ci sia come una così sotto non gamba a Maradona. Non inimicarsi. No, non inimichiamoci chi? I fedelissimi. Capisco, vabbè, in culo i fedelissimi. Le sante trinità napoletane, va bene. Allora, in culo anche alle sante trinità napoletane, io direi di andare avanti con un pezzino. Sì, anche perché comunque tutto questo non sappiamo cosa dire, però ve lo diremo dopo questo pezzo. Sì, ci rifletteremo, dire. Ora ci rimetteremo davvero a ragionare sul serio e capire, oh, ma cosa diciamo ai nostri radio ascoltatroci? Oggi primo giorno di una nuova vita, cancello tutti i nomi dalla mia rubrica. Se penso di fuggire sono già la guida, ci sarà un posto dove l'uomo non è un parassita. Le mie paranoie bucano il soffitto, la paura in casa tipo subaffitto. Il cuore batte il tempo, forse l'ho capito, nella vita basta avere solo un po' di ritmo. Nella testa quello che mi serve, nelle tasche ciò di cui ho bisogno. Agli occhi del Signore nudo come un verme, puoi levarmi questo infame di torno. Ti accoltello se mi guardi dentro, forse volevi un idolo perfetto. Non mi fido neanche di me stesso, se chiudo gli occhi io non credo di essere protetto. Non cambiare, infatti sono sempre uguale. Sono cambiati gli altri, tutto normale. Ho fatto selezione naturale, schifo. Gli schiaffi mi hanno reso un tipo schifo. Per chi non sa ascoltare c'è motivo, se lo scrivo, l'hai capito? Nella vita fra ci vuole rito. Ritmo. Non importa, anche se la luna è storta. Fra noi siamo messi peggio, non siamo più quelli di una volta. Mi hai convinto, che se l'orologio è finto. Ma se non è questione di tempo, na na na na. Ritmo. Vai. Tutti hanno un parente alcolizzato. Nella mia famiglia sono io l'alcolizzato. Non ho genitori criminali come i vostri. Magari sono stemmi ma cagano figli mostri. Sei forte quando sei nel branco. Da solo resti muto se la di Django. Non fare il Rambo se preghi per la pioggia e metti in conto il fango. Sono cresciuto in giro per le strade. Ho un amico che è finito sul trono di spade. A testare era un killer seriale. Tu correppi e fatto scuola ma quella sera. La tua street credibility non mi ha colpito. Hai messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo. Non importa, anche se la luna è storta. Fra noi siamo messi peggio, non siamo più quelli di una volta. Mi hai convinto, che se l'orologio è finto. Ma sai non è questione di tempo. Na na na na. Fra ci vuole ritmo. Eccoci tornati dopo questo bellissimo... Che pezzo era, Palmi? Perché ce l'hai consigliato? Perché questo pezzo ve l'ho consigliato, ho premuto così ritmo. Tanto per mandarlo in onda, perché non è questione di tempo, ma è questione di ritmo. Visto che io rompo il cazzo con la questione del tempo, sto cercando di imparare a... Ad avere un buon ritmo al di là del tempo. Esatto. Al di là del tempo, sì. Sì. Senso del ritmo. Come dicevo, no, prima, a pre-puntata, pre-diretta, sto cercando di rimanere ancora nel tempo 1. Cos'è questa storia del tempo 1 e del tempo 2? Allora, questa cosa del tempo 1 mi pare era dopo una puntata dell'arte del vizio, una delle tante, a cui era presente anche il Beppi. Però forse Beppi era presente dopo a cena. Spiritualmente sicuramente c'è. Ah, la prima puntata dell'arte del vizio. Siamo arrivati a parlare della prima puntata. Tante. Allora, dovete sapere che la prima puntata dell'arte del vizio si è svolta qui a Frittole Studios in apertura con gli In Camiscia, di cui uno dei due componenti lo vedo ora ritratto in un bicchiere da matrimonio praticamente... di sopra. Io ti devo correggere, Palmi, però finisci quello che hai detto. Ok, poi va bene. Mi devi correggere sul ritratto? Sì, segnati le note no, al margine. Altre cose. Va bene, dai. Quello che mi ricordo, poi inoltre. Segna sul tarquino. Vabbè, dopo questa fantastica puntata che si era fatta con gli In Camiscia, ci ritrovammo tutti a cena parlando della puntualità, parlando del tempo, parlando degli impegni e dei cazzi di tutti quanti. Anche i Beppi mi diceva, boh, guarda, un conto è che se uno ce la mette tutta e fa ritardo, però comunque ti dedica il suo tempo, un conto è se uno se ne frega il cazzo. E il dottore invece mi sono trovato d'accordo inevitabilmente anch'io. Con te stesso. Sì, con me stesso. Però il dottore avanzò questa, diciamo, filosofia di vita, che... Ci sono due tempi, no, in cui si svolge un'azione, in cui si svolge un tempo. Una in cui pensi a quello che devi fare, ed è il primo tempo. E il secondo tempo è il luogo, la zona temporale in cui effettivamente ti trovi a dover svolgere quella determinata azione. Da lì, da passare dal primo al secondo tempo, il lavoro è, potrei dire, ineccepibile. È tanto il lavoro da fare. Però... Come diceva Garibaldi. Bakunin, in realtà già il pensiero è un principio di azione. E da lì... è un modo un po' più sofisticato per dire che tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Anche Osho lo diceva. Però mi diceva, boh, magari aspettiamo ancora un po' a tuffarci, perché magari la spiaggia è calda e si sta ancora bene a prendere il sole. Di Osho. Voi ve ne ricordate alcune? No, io Osho non l'ho mai letto, so chi è, ma e l'unica notizia che ho avuto su Osho è stato tramite qualcuno che l'ha letto, che poi l'ha infamato perché diceva, ma c'era quella, se fa freddo metti il berretto. Ma è tipo anche quella cosa dei cioccolatini, no, quella era Forrest Gump, non c'è il cazzo. Molto probabilmente sì. Ma io ho una domanda, ma questa prima puntata famosa di fatta qui ai Frittori Studios, ma com'era questo studio? Cosa c'era questo qui? Questo studio era così come lo vedi ora. Già pronto? Ma lasciamo raccontare al reverendo, perché deve ancora raccontare la sua versione dei fatti e integrare i miei errori. Ah, allora, giusto, hai scritto. La correzione. Allora, il fatto è che la prima puntata dell'Arte del Vizio in assoluto non è stata quella con gli in camicia. Oh. È stata una puntata a caso. Che è però vero. Abbiamo iniziato a chiamare così. C'è una bellissima foto di un centro commerciale con una vetrina spaccata e delle scale, come si chiama? Scale automatiche. Piene di monnezza in giro. Ah, io non ero presente, mi ricordo. Perché poi. Però è strana questa cosa, perché avevi dato tu il nome in tutto questo. È vero, ma mi ricordo questa cosa qua. Sai come successe il tutto? Che una sera io ero via per i cazzi miei e mi chiamò Diesis e mi disse: oh, Palmi, ma qui c'è un monte di gente presa bene. Manchi tu. Però a noi ci è venuto tipo in mente ora di fare questa diretta. E quindi faremo questa diretta. Faremo, escluso, se non sbaglio, ci sono letture comunque da parte di Diesis, da parte di Bepi. Sì, se riuscissi ad aprire questo. Mannaggia il nostro sito. Però io parlo, cioè, effettivamente a me mi viene in mente la prima puntata dell'arte del vizio come concezione di una trasmissione radio per musica live. Fu quella, perché eravamo tutti al famoso pranzo al Poggiolo, quel bellissimo posto. Al pranzo del genuino clandestino del nodo di Firenze, e c'ero io che vi mettevo il pepe al culo per andare a fare sta cazzo di diretta, perché io dovevo andare. Quindi è un tema ricorrente, tu che metti il pepe al culo per iniziare a fare la diretta. Cioè, no, non che metto fretta, che focalizza. Che focalizzo sulla puntualità, sì. Grazie, maestro. Un po' come Osho, per il tuo sostegno. Grazie, maestro. Allora, la descrizione della prima puntata dell'Arte del Vizio dice che c'eri. C'era anche Dottor Io, Albus Silente. Chi lo sa? Scusate, fa lo stesso. C'era? C'era anche Bepi, c'era Albus, c'era Tony Manero la prima puntata. Ah, è vero. Ma secondo me, io mi ricordo, guarda, i miei ricordi sono vividi, ma mi posso sbagliare tranquillamente. Sono lividi. Perché io c'ero a quella puntata con Tony Manero e non era secondo me la prima puntata, però. Zio, non so cosa dire. Che ti devo dire? 24 novembre 2020, non mente. Deve essere così. Il punto è che questa penso sia stata la prima volta in cui abbiamo veramente suonato live. Ah, il punto okay. È, perché nasce l'arte del vizio, adesso facciamo sti intro un po' grande. Semplicemente è scoppiata per esempio la pandemia, cioè sta roba qua. Per me è stato un bel periodo. Anche per me, una manna dal cielo. Però Radio Wombat, presa tutta dalle emergenze, dall'emergenzialità del momento, ha detto: oh, siamo tutti in casa, non far niente, nessuno lavora. Beh, noi lavoravamo lo stesso, ma poca gente lavorava. Mettiamoci a fare dirette speciali sul tema pandemico, per tenere un po' gli aggiornamenti. Insomma, la situazione si sta evolvendo ancora molto in fretta a livello nazionale, locale, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni giorno venivano fuori delle notizie, per cui aveva senso a livello di radio stare sul pezzo su sta cosa qua. Per cui è nata l'idea delle dirette speciali ogni giorno dalle 7 alle 9. Sì, okay. E noi ci eravamo accattati, se non sbaglio, il venerdì sera, dalle 7 alle 21. Ci sta. E infatti, se andate sul sito, sul vecchio sito di Wombat, qualche puntata c'è pure su quello nuovo, trovate tutte queste fantastiche dirette speciali da frittole, in cui tra l'altro siamo pure stati censurati una volta. Mi ricordo. Vabbè. Perché forse abbiamo detto qualcosa di inopportuno sugli sbirri. Abbiamo detto di infrangere le regole. Perché mi ricordo che il periodo del primo lockdown fu il momento, il periodo in cui entrai in contatto con Radio Wombat o direttamente con lo studio di Frittoli. Sì, esatto. Non era ancora così. Tu ti sei immesso in quel momento lì di trasformazione. Ma perché mi sono immesso? Qual è stato quel... la muratura, perché c'era da intonacare tutto. Ah, dovevi da fatica. Da sporcarsi. Sì, ma quello però è venuto, cioè, praticamente mesi dopo, perché si iniziò a maggio, iniziai io a maggio con voi, e poi a settembre si incominciarono i lavori di ristrutturazione. A settembre? A settembre, sì. Prima della terza stagione. Prima della terza stagione di Radio Contado. Salutiamo tutta Radio Contado. Ciao Radio Contado. Tu avevi cercato di farli partire prima. No, ma assolutamente no, perché il reverendo qui premeva giustamente, perché qua faceva veramente tutto spolverava e si moriva di intonaco cadente. Sì, sì, sì, sì, era abbastanza degradante, sì, questo, sì, luogo. Decadente. Non era abitabile, ecco. Non era nemmeno sereno, perché non era così bianco. No, ecco. Diciamo che 2 ore alla settimana potevi viverci, però c'erano i computer che stavano morendo annegati nella polvere, il mixer nero e, bello, insomma, non si respirava una gran bella aria, nonostante comunque i nostri amici di Radio Contado abbiano speso diverse ore qua su a fare anche delle gran puntate di qualità, a differenza nostra. Effettivamente, sì. Sì. E comunque non si curavano dell'ambiente circostante, loro trovavano la forza dentro di loro. Vabbè, lasciamo stare. Stendiamo un pieto veloso. Ma ho finito comunque le mollette. Comunque, come, ok, Radio Wombat, ok, inizia la pandemia, Radio Wombat istituisce le dirette speciali. Decreto legge di Radio Wombat. Un salutone alla Pink. Ciao Pink. Grande Pink. E poi, vabbè, c'è stata l'estate, libera tutti, eccetera, eccetera. Però nel frattempo cosa è successo? È arrivato Palmiro che fa: oh, regà, dai, però io voglio suonare, io ho il chitarrino, mi piglia bene, dai, io, ma suoniamo, dai, io, c'è un sacco di gente che vuole suonare. Non avevo ancora voglia di suonare. Poca pressa, insomma. Non ti porti più dietro la chitarra, sei cambiato. No, stasera non l'ho portata, gli ha appesa in cameretta sulla parete di cartone. No, non l'hai portata per il compleanno? Sì, volevo concentrarmi unicamente, insomma, su Fritto, sui ricordi. Vabbè, insomma, in tutto questo è arrivato Palmiro, è iniziato ad affacciarsi prima, non mi ricordo se prima Contado, prima l'arte del vizio. Comunque, fatto sta che abbiamo continuato con te qualche diretta speciale a parlare di cose serie, a leggere articoli. Ah sì, davvero? E poi cosa è successo? Abbiamo fatto la prima portata dell'arte del vizio. Io voglio ricordare la prima portata. E cosa avete mangiato? Io voglio ricordare che questo nome l'ha deciso Palmiro unilateralmente, praticamente. Però da dove ti è venuto questo colpo di genio? Allora, questo colpo di genio è perché penso che nel mio totale e profondo narcisismo, velato dalle dinamiche sistemiche patriarcali, abbia deciso un nome per cui io ritenga di avere gusto, e giustamente poi per tutto il resto delle successive puntate sono stato preso per il culo. Infatti ogni puntata, ogni diretta ha un nome che fa rima con vizio, ma che non è effettivamente arte del quindi vizio. Quindi questa pratica è parte da un senso di rifiuto nei tuoi confronti, sì, dell'andare contro una io lo chiamerei simpatico rifiuto. Simpatico e affettivo rifiuto. Affettato. Sì, in ogni caso, cioè, Palmiro è stato, insomma, gli è stata lasciata questa libertà anche perché non c'era nessun altro nome all'orizzonte. Andava bene così. Okay. Gli orizzonti del beat. Sì, era partita Radio Contatto, però cioè. Sì, non era. No, non era per niente all'altezza. No, Radio Contatto, no. Allora, vabbè. Ora che abbiamo detto Meningi spappolate. Sembrano i nomi dei gruppi punk della prima superiore. Sì, sì, sì. Odio nero. Vabbè, cattivo. Questo è un po' troppo. Vabbè, rifacendomi, diciamo, alla retorica dei nostri amici di Woke Whoops, che saluto tantissimo. Odio nero è un po' offensiva, ecco, velatamente, cioè, vabbè, allora mandiamo un pezzo, visto che siamo arrivati alla prima puntata, mandiamo un pezzettino, poi iniziamo a parlare di cos'è successo, di effettivamente. Cosa è successo, sì, dell'effetto, sì, domino, sì, dell'effetto serra. Eccoci tornati. Questo tappetino drum and bass, oh, un po' anni sì. 90, un po' così. Quanto siamo bravi a rientrare, quanto non siamo bravi a mantenere una puntata con un filo logico. Sì, praticamente non ne siamo capaci. Vabbè, questo no. È stato poi il bello della dinamica che si è creata alla televisione, no? Essere estemporanei il più delle volte, ma abbastanza eclettici ed elastici. Alla fine dei conti, eclettico riguardante me più o meno. E quindi, ritornando un po', diciamo, al mood romance che stavamo perseguendo, è iniziato un po' tutto così. Sì, ecco, diamo colpa al Covid, diamo anche merito alla pandemia per aver dato vita alle dirette speciali in cui Palmiro è subentrato e anche alla nascita dell'arte del vizio. Un po' palmirocentrica questa. Sì, è palmirocentrica, vabbè, parlate anche voi, scusate. Cioè. Scusate, io ero in bagno, adesso torno e ritorno sul pezzo, non vi preoccupate. E comunque, siete appena ritornati dal bagno, non c'era Oistro, non c'eri te, Reverendo stava semplicemente ricordando come non siamo bravi a ritornare sul pezzo, a seguire un filologico, sì. Beh dai, se no non sarebbe l'arte del vizio. Eh no, stavamo continuando questa storia, però insomma, Ginger, se mi devi far sentire in colpa no, per il mio egocentrismo, cioè io mi faccio tranquillamente da parte. Posso appoggiarti la birra sul computer? No, però me la puoi passare a me che la appoggio sul tavolo, intanto ne esco con goccio. Allora, comunque, la prima puntata dell'arte del vizio. Avrete notato che ha una numerazione strana, non è la puntata numero 0, la puntata numero 1. È la numero 4882. Nemmeno io lo so. No, dai, te lo. Dai, lo sapevi anche tu. Allora. No, non me l'hai detto, non me l'hai detto. E non te l'ho mai chiesto. Chiaro. Vabbè, ma c'è scritto anche nella descrizione, basta che te la vai a leggere. Ah, non me la ricordo più perché ho letto quella riaggiornata. Allora, 4882 è. Numero di telefono di in esadecimale è 1312. Ha ha ha ha. Cazzarola. Ha, ha. Nonostante abbia delle competenze in elettronica digitale, questa cosa non me la ricorda. Cioè, non ho collegato, scusa. 1312 che rappresenta? No, 488. Puoi ripetere? 4882 rappresenta 113? 1312, 113. Salutiamo i nostri. È il numero dei amici. Materassi. Chiamate il 48 800 00 1312. Ah, ok, ci stanno arrivando. ACAB. Ah, oh. Ma come ci sei arrivato? Ha studiato l'esadecimale. Un colpo di genio. Ha studiato il ragazzo, ha fatto il liceo classico. Ah, ancora c'è da prendere il diploma in realtà. Ma tu l'hai fatto dentro il liceo classico. Ricordiamo che Palmiro è in quinta. Grande Palmiro. Grande, ce la puoi fare. Ma è già un classico. Va bene, usciamo da questo palmirocentrismo. Stavo parlando di perché sei quello che fa più ridere in questa stanza. E meno male, no? Dai, questo è un complimento. Ah, ma infatti io. Insomma. Allora, comunque. Ritorniamo a noi. Comunque niente, svelato questo primo grande segreto. Che non era un segreto. Vi ha stupito, che storia. Poi siamo andati alla puntata numero 4883 e via di seguito. Se volete facciamo una fantastica carrellata di quello che è successo in queste fantastiche puntate. Okay, tipo, vai al volo. Nella puntata volo. Dopo descrivi o commenti. È stata l'arte del fischio. Ok, non c'era, c'eravate te, dottore, parlavate del fischio. Esattamente, okay. bravo. Mo ricordo, ho ascoltato. Abbiamo chiamato al telefono un parente del dottore, che è esperto di nazionale in fischi. Che sta a fischiare molto bene. Quello che studia fischio a Siena Jazz. Anche. Ah, ok, ho capito. All'Accademia? Al Conservatorio? Al Conservatorio Siena Jazz. Diciamo che pratica il fischio, sì. Ed è molto bravo e col fischio si può suonare, si può comporre, sapevatelo. Tipo Morricone. Esatto, quelle famosissime del duello. Certo. E lui l'ha composto, giustamente. Un saluto a Ennio Morricone. Ma Ennio Morricone si sarà diplomato alla Siena, cosa? No, penso proprio di no. Mi pare romano? Un saluto a Ennio Morricone in tutto Soldo. Questo. Che ci ascolta su Radio Wom. Ma mi sa che è morto, sai. Tu non puoi sapere le frequenze di Radio Wombat dove arrivano, dai. No. Questo 1359. Vola. Va buono. Vai, continua con allora, la descrizione. Allora, 4884 siamo. In cui c'è quella descrizione, dice il primo glorioso live serio. Ah, mo te voglio. Perché c'era finora, monte di gente. Perché finora sì, c'erano stati tappetini, ma questa volta abbiamo veramente avuto il primo gruppo degno di essere chiamato di tale. Ce ne vuoi parlare un po'? Allora, è stato il primo nostro live, era quello del pranzo di cui rimembravo, in cui mi mettevo la strizza al culo, rompevo il cazzo a mille. Era quel pranzo, andiamo. Avevi la foga di suonare, sì, dai, sì. Diciamolo. No, non eravamo noi che dovevamo suonare, eravamo io, il dottore, il reverendo, e c'erano gli Inca Miscia. Ah, i famosi Inca Miscia. E uno dei due è ritratto, il pianista degli Inca Miscia è ritratto sul bicchiere che sto molto piacevolmente sorseggiando. Sì. E salutiamo Camicia. Evviva. No, è stata una gran bella puntata. Vi consiglierei di andarvela a riascoltare. Comunque, ascoltarvi gli Inca Miscia in generale perché sono molto bravi. Sì, comunque, forse gli ascoltatori si sono un po' stancati perché poi andò in replica per due mesi. Sì, questa puntata è del 14 dicembre, forse del 13. E poi la puntata dopo è andata, 13. Cioè l'abbiamo fatta il primo febbraio del 2021, sì. Cioè quindi due mesi dopo. Stavate digerendo i pranzi di Natale, assolutamente. Dai. Assolutamente. Gli ascoltatori si saranno fatti una ragione. Sì, però a quel tempo forse mandavamo addirittura due repliche dell'arte del vizio su Wombat. Tutte le settimane. Settimanale. Ed è rimasta questa fantastica puntata degli Inca Miscia che per quanto fosse bella aveva anche scassato il cazzo. Anche perché ricordiamo, sono un gruppo molto bravo, di musica bella e anche abbastanza particolare. Tra l'altro conserviamo una fantastica foto di quel giorno. Dovrebbe essere stampata e appesa in questo studio. Sì, mi pare, forse alla porta, all'entrata. Ma beh, davvero? Sì, ce la stampò, come si chiamava? La Faggiana. Faggiana si chiamava, può no? Essere? Sì, sì, sì, sì, sì. Un saluto anche alla Faggiana. Un saluto alla Faggiana, sì, ok, alla Faggiana. E sì, la... fantastica puntata, vabbè. La Faggiana. Happy memory. Vado agli perfetto. Non avevamo ancora inaugurato gli effettini stasera. No, è vero, è vero. Vabbè, Ostro Slim qua si divertirà a sabotarci. Va bene, andiamo avanti con la scarellata. Diventerà sempre più difficile comunicare. Ricordiamo. Ma quindi Arte del Rischio 4885. Ah, anche questa è stata bellissima. Sì, ma tu te le ricordi tutte davvero? Io non ho idea. Ma ti ricordi che eravamo io, te, Batterico Mannaro mi pare, e c'era Diesis, c'era anche all'inizio mi pare i dottori, che però dovette andare via per uno spiacevole inconveniente ti era capitato. Può essere successo, sì sì sì. Ok, ti ricordi quella puntata? E si fece che c'avevo la chitarra elettrica con l'Ibanez. Ma infatti la descrizione dice 2 ore di prove improvvisate. Ti al basso, slash regia praticamente. Sì sì sì, molto bello. Comunque la qualità sonora sicuramente sarà stata bassa. Molto bassa. Sì, faceva pressoché cagare. Io ho fatto veramente schifo la chitarra, però Batterico Mannaro spaccava il culo. Bravo. E Diesis si è buttata via, anche te dai. Ci siamo assolutamente. Comunque quella sera ci siamo divertiti. Sì, sì, sì, di brutto. È stato di brutto. Comunque dopo questa grande puntata il 1 febbraio sono passate solo 2 settimane. Ah, l'arte del tizio. Sì. E qui, va, qua e qui sì, si muovono i polsi, sì. Si muovono i polsi, ruotano. Sì, ci sono. Beh, una puntata. Raccontami dell'arte del tizio. Chi c'era? Allora, c'era un tizio, l'ospito? C'era qualcuno. E non mi ricordo come si chiamava. No. Come l'avevamo chiamato? L'avevamo chiamato. Uno qualunque? No, uno, no, uno qualunque. Uno qualunque era batterista spaccaculo punk hardcore. Oddio. Che era passato di qua e suonava la bossa nuova da inchiesta. Ti ricordi? No, era fantastico. No, Mr. Tonino. L'avevamo chiamato Mr. Tonino. Sì, comunque Tonino essere. L'avevamo chiamato. Ah, ok. Tonino sì. Uno a caso. Tonino uno a caso. È vero. Tonino uno a caso, bravo. Che ci aveva messo sulla techno. C'era anche uno sì. A quella puntata, se ti ricordi. Comunque era tutta gente che passava di qua per totalmente a caso. C'erano dei pizzi. In pieno lockdown, quando per passare da una regione all'altra gli schiavi una multa di 400 euro. Esatto. Il Frittore esatto, era il luogo più popolato d'Italia. Vuoi togliere questo effetto, per favore? Comunque è stata bella anche quella, è stata una puntata molto sì. Elettronica, decisamente elettronica. Un saluto a Tonino. Un bacio a Tonino, io gli avevo pure mandato un messaggio per chiedergli se poteva anche chiamarlo, non ci ha risposto, magari dopo possiamo provarci ugualmente. Sì, proviamoci. Comunque un mostro agli algoritmi della techno e anche sì. La chitarra sì, sì, bravo. Accordata in do aperto. Bravo a far suonare sì, varie sì. Cose. Sì, sì. Anche le corde del cuore. Sì, perché quella sera sicuro. Da ultimo ci stava suonando, ci aveva chiesto, no? Di cosa vuoi parlare? Io mi fa, di nulla, io suono e voi magari mi leggete qualcosa sulle balene. Sicché si aprì la pagina di Wikipedia sulle balene e si iniziò a parlare. Da ultimo ci suonò questi brani bellissimi suoi in questa accordatura strana e si introdussero, diciamo, quelli che erano i Transistor e anche lì fu già spiattellamento totale. Me li ricordo, l'ho ascoltata quella puntata. Spiattellamento di neuroni. Di neuroni. Mamma mia. Chiediamo scusa agli ex amici all'ex amico di Coccoli e Sidicio. E poi? E poi andiamo all'arte del vizio, l'abbiamo chiamata così, come se niente fosse, 4887. E penso che qua sia nata, o perlomeno abbiamo dato un nome alla Frittola Ska Jazz Ensemble. Ah, perché era il momento dei tappetini infiniti. C'era uno qualunque qui. Può essere, adesso ce l'andiamo a leggere. C'era anche Lulu, se non sbaglio. C'era il dottore e c'era anche pure Albus. No, allora, questa è la puntata in cui dovevano esserci Matti delle Giuncaie. Ah, è vero. Non sono venuti, non sapevamo cosa fare. Era il compleanno? Al compleanno di un luogo magico? No, era marzo. Era marzo. No, Matti delle Giuncaie era perché volevamo cercare di proseguire nel nostro trend immaginifico della trasmissione, di chiamare gente... Che poi sono venuti alla tre giorni, sono andati alla tre giorni di Mondeggi, Matti delle Giuncaie. È vero, E hanno spaccato il culo, effettivamente, sono bravi da paura. Vabbè, non si meritano frittole in ogni caso. No. Cioè, oddio, non sono potuti venire per via del coprifuoco, ecco. Esatto. Alla fine dei conti. Non se la collavano. Come dicevo prima, dietro le quinte, raccontavo chi ha Oyster Slim, che ci chiedevano dell'autocertificazione, però gli dissi: boh, noi siamo una radio un po' così, legale tra le virgolette, un po' così, tra molte virgolette, una radio speciale. Secondo me sarebbe potuto rientrare in qualche tipo di autocertificazione. Sto andando a fare no, perché avrebbero, sai, comunque ci ho parlato con loro, poi chiudo in frettissima la parentesi. Però tipo tutte le radio, non fra parentesi, illegali, risultano come aziende, quindi con una partita IVA, e come aziende locali, e quindi come datori di lavoro o ingaggiatori. Certo, potevano andare a registrare. Sì, cioè loro potevano tipo registrare la loro autocertificazione, e gli sbirri potevano controllare sta cosa. Scusate la sessione. Ma così tecnica. Non è stato. Va bene. No. L'arte del precipizio. Sì, questa la 488888 è la puntata in cui dicevi appunto che c'era uno qualunque, il fantastico batterista. Ah, era qui? Sì. Quella sì. È stata una bella serata. Secondo me qualitativamente, cioè il suono lì è stato, la musica è stata bella, abbiamo suonato bene. Anche secondo me. Qua c'era anche Lilù. Sì, che cantava e suonava il violino, faceva degli assoli vocali da... Riascoltatevi la puntata dell'arte del vizio 488888. Del precipizio. 88888. Sì. Argomenti sempre comunque molto profondi. No, abbiamo suonato a dritto. Molto e alti basta. In questo caso. Ma forse c'era il dottore che leggeva qualcosa dei disastri. Ma sì, secondo me, cioè comunque qualcosa lo leggevamo sempre. Anche perché c'era Diesis presa super bene a leggere. Ah, è vero. Sì. Insomma, gente. E poi arriviamo alla 4889, che è l'arte dello spiazzo, in cui ci raggiunge per la prima volta questi microfoni il fantastico Slim. Slim, com'è stata la tua prima volta in radio? È stata un'emozione salire la scaletta di Frittole Studios, prendere il battello a vapore, salire sulla poppa e iniziare a navigare. No, è stato veramente bello suonare i miei brani qua con una banda di svitati. È stato bello. Poi la Sky Jazz Ensemble, Frittole. Flying Carpet. Si è suonato duro. Mi ricordo anche l'improvvisazione poetica di Uno. Del signor Uno. Quella fu bellissima. È stata molto bella. Mi confermate che è stato durante quella puntata, quindi sì. Ero confuso, volevo estrarla, ma non ce l'ho fatta. No, è stata veramente bella. Un saluto a Uno comunque. Ciao Uno. Dopo magari durante un inframezzo musicale ce la ritagliamo e ce la riascoltiamo, perché in effetti era stata seria. Sì, era stata emotiva, cioè proprio era... Come cazzo posso dire? Era venuta fuori tutta la sua emotività e... Cioè, in questa stanza si è un po' perso il tempo, come si diceva prima, no? Del tempo e del ritmo. Sì. Abbiamo perso il tempo, ma non il ritmo in quel caso. Il ritmo ce n'era a pacchi, ma il tempo si è dilatato. Infinitamente. Sì. Un po' come stasera, che sono già le 8:30. Sì, più o meno. Com'è possibile? Comunque, vabbè, Gengè aveva pronosticato, diciamo, predetto che la puntata sarebbe durata mezz'ora dopo un'ora di ritardo. No. Speriamo di infrangere queste barriere. Barriere del suono e del tempo. Stiamo parlando tanto, quindi andiamo con una canzone. Dai.

quest'estate ero in terza elementare col sussidiario. No, e poi all'inizio della nuova stagione giustamente sono subentrate, meno male tra l'altro. Vogliamo raccontare come è nata la nuova stagione? Dicelo dei Genge. La nuova stagione è nata con il tentativo di fare una marchetta. Perché io ho partecipato alla prima assemblea di Radio Wombat e sembravo le ragazzine il primo giorno del college che ci sono in America, e come si chiamano, le sorority che cercano di prendersi le matricole, perché c'era gente che mi diceva vieni a fare una puntata di qua. E io sono stato il più scaltro in tutto tu sei questo. Stato veloce. No, in realtà la verità è che io poi dopo i giorni successivi mi sono andata a sentire un sacco di trasmissioni e l'arte del vizio era la più divertente e quindi volevo venire a fare l'arte del vizio e ho proposto l'arte dell'orifizio per ricominciare a bomba la seconda stagione, parlando di cose che ovviamente l'ho proposto partendo da cose che mi sono affini, tant'è vero che esatto, dal profondo, dall'intimo, non a caso poi profondo. Non a caso poi ho iniziato il tempo delle pere parlando di cose comunque affini. Diciamo infatti che Genge domenica scorsa, sempre qua da Frittole Studios, con anche il grande Dracula. Per gemmazione. Si è staccata una valvola dell'arte del vizio e si è ammaturato in una nuova trasmissione. Va bene, andate ad ascoltarvi anche l'arte delle pere, mi raccomando. Io lo devo ancora fare. Il tempo. L'arte delle pere. O il ritmo. Il ritmo delle pere? O le pere al ritmo? Le pere al ritmo, se ce l'hai, vanno al ritmo. Comunque, tutto questo è stato bellissimo incontrarti durante quella tua prima assemblea. E che dire, sì, io ti ho subito invitata a fare una puntata con noi. E cosa è successo? Poi piano piano sono successe altre mille cose. Tu sei venuta, ci siamo incontrate e hai detto, oh, basta, sta domenica Vamos. Ma sì. Domenica, perché in tutto questo era già novembre. Ho fatto il palmino della situazione, ho detto dai, quagliamo. Sì, era già novembre. Non fare il mio stesso sbaglio di cadere nel palmirocentrismo. No. Sono caduto nello gengecentrismo. Invitiamo di nuovo l'entità all'ascolto ad andarsi ad ascoltare l'arte dell'orifizio, perché questa una è puntata stata particolare. Una gran puntata. La differenza ha segnato la differenza comunque con la seconda, prima stagione, un cambio di rotta totale, quasi assenza di musica live e tanto sproloquio. Sì. Temperature bollenti, argomenti nervi tesi. Argomenti scomodi. Ci siamo messi insomma un po' in difficoltà. Sì, belli introspettivi devo dire. Sì. Quando la prima stagione era molto orientata all'esterno, no? Eravamo partiti con le dirette speciali verso il fuori, verso le notizie del mondo, sta enorme pandemia. Poi piano piano siamo ritornati un po' a noi suonando, ma comunque cercando altre entità che venissero a suonare qua. Quindi ci siamo messi non tanto in discussione, cioè non avevamo tanto da dire, magari ci mettevamo a leggere. Invece così è ripartita la seconda stagione con dell'introspezione. È arrivato l'aperitivo. Grazie, Albus. Porta Albus a noi la luce. Avocado silente. Madonna. La mattina. Allora, io in tutto questo, visto, cioè io metterei un pezzetto, così sì, ci possiamo bisogna godere. Mettere, esatto. Va bene. Ci dispiace, amici, questo è il bello è della arrivato diretta. Albus con l'avocado, non possiamo più parlare di nulla. No, infatti. Ti sembro fatta, ti sembro bella. Fismo con la gang, ti sembro fatta, ti sembro bella. Ma quella è re. Ti sembro fatta, ti sembro bella. Mi sento un panda su una palla e sembro fatta, ti sembro bella. Fismo con la gang, mi sento un panda su una panda con Tiffany. A colazione sei dati e siamo in otto su una panda e c'è Tiffany. Indovina questa che non la vai. Ma quelle fish, ma che ci fai con quelle? E dimmi con quella cosa c'è pezzi di vada. Sul braccio il pezzo scombinato, un doppio pezzo di pasto. In una bolla come va sul pavolo, ma senza il drago. Che vino le dà allo scotch sulla gamba. Sento un panda su una panda con Tiffany. Colazione se da TV siamo andato su una panda e c'è Tiffany. Indovina questa chi la mandava. Se Tiffany ti fa ti faccio il tifo che ti venga tifo. La tua troia fatta si è fatta qualche tuo amico. Sì, tipo che tuo amico qualche amico che è uno sbirro. Tipo che mi piace il cacio, sì sì. Se te lo tiro vai. Ok, Tiffany alla gang. Se la passano un po' tutti, chissà perché. Ok, Fishbowl con la gang. E sono Fishbowl con la gang. Mi sento un panda su una falda e sembro fatta. Ti sembro bella. Fishbowl con la gang. Mi sento un panda su una panda con Tiffany. A colazione se da TV siamo in atto su una panda e c'è Tiffany. Domina questa chi la mandava. Rialziamo a caso, voilà, questi voilà. Volumi, stavamo sì, ancora allora parlando. Siamo ancora nel pieno dell'avocado. Col buon Albus. Non ci eravamo accorti che stava finendo il pezzo. Ci ha rifocillato, che buona. Vabbè, di che stavamo a parlare? Di SOS Rosarno. No, non è vero, stava a parlare a Gengè. Che stava di? No, vabbè, spottino. Spottino, mettiamo dai. Questo spottino, vai. Buonasera a tutti, tutte. Vabbè, cosa volevo dirvi? Che come ben sapete, o come molti di voi non sanno in realtà, come Mondeggi facciamo gli ordini da SOS Rosarno e ordiniamo un botto di agrumi buonissimi e succosissimi e spremosissimi. E niente, quindi sono qui per spottare sta cosa e dirvi comprate gli agrumi di SOS Rosarno. Wow. No, niente. Come fanno? Come possono fare a fare? Limoni, potete... arance, pompelmi e avocado. E avocado. Potete benissimo andare sul sito arance-mondeggi.vado.li e trovate un fantastico form in francese che però in realtà in mezzo in italiano lo capirete. Ma è vero tutto questo? È tutto vero, è tutto vero. E potete compilarlo e ordinare i vostri fantastici agrumi. E gli avocado non ci sono in realtà. Quindi me lo scrivete tra, tipo, come si chiamano? I commenti, insomma, c'è una sezione. Tra le note, grazie reverendo. E basta, l'ordine chiude il 31 di dicembre, ordinate un botto di arance e il, cos'era? 9 di gennaio vi verranno consegnate in quel di Mondeggi. Affrettatevi! Ci scusiamo per questo intermezzo pubblicitario, comunque anche noi abbiamo bisogno dei nostri fondi e delle nostre arance. Delle nostre abbiamo arance, bisogno assolutamente. Più che altro di quello. Comunque ogni parola è stata presentata con l'unica finalità di presentare il prodotto. Ordinate le arance. Fine, basta. Se non ordinate le arance, noi non continuiamo con la trasmissione. Ui, allora subito, allora subito con minacce. Invece secondo me non è una minaccia molto funzionale. È un ordine. No, anche questa stavi a parlare a te. Sì, a parte, ma non è quello appunto. Se le sei persone, entità in ascolto, forse preferirebbero non essere pressate da, no, infatti. Da questi spot. Rimangono sei lo stesso, va bene. Una sono io. Ciao, sei persone. Ok. No, sono in palla, no, non sono io. Ma io che stavo a dire? Stavi parlando del salto di qualità che è partito dal basso, no, dal profondo. No, salto di qualità, il cambio di rotta. Ok. È vero, no, stava parlando lui, raga, stava parlando di questo rientro al centro, questo ritorno dentro. Sì, sì, sì, beh, chiaramente l'arte dell'orifizio è stato prima di tutto una puntata in cui ci siamo confidati. Come sei socratico, reverendo. Sì. Ci siamo confrontati su qualcosa che è profondamente intimo e interno. Siamo tornati al primo chakra. Grazie. Vabbè, la prima stagione è stata un'epoca presocratica e dall'in poi l'arte del vizio si è interrogata. Ma chi siamo noi all'interno di Frittole? È diventato più esistenziale. Sì. Esistenziale. Questo anche perché Palmiro non si era più fatto vivo, cioè diciamolo. Come mai? Lo chiediamo a te, Palmizio. Diciamo che la musica live è solo in pausa, non tornerà. Dopo Natale. Sì, dopo Natale. No, in realtà, allora, forse non l'ho detto a nessuno, però mi hanno chiamato quelli di Radio Contado, mi hanno strisciato una busta su una scrivania. Che c'era? Strisciato la busta. Un saluto a Fishbowl. Allora, nella busta non c'erano soldi, purtroppo, però c'erano tante belle promesse e c'era un proiettile. Una testa di porco. Un proiettile firmato Palmiro. Ma questo è per te, se non vieni da noi. No, diciamo che ho concentrato più le mie energie a inizio stagione. Se qualcuno smette di interferire con le mie sono frequenze vocali, ho preferito all'inizio del periodo della stagione impegnarmi di più, diciamo, su Radio Contado, perché richiedeva un maggiore sforzo da parte mia. Sì, ma è inutile che ti giustifichi. No, tanto figurati. Non sei giustificato. Maggiore serietà, insomma, anche. No, maggior lavoro, ecco, perché tanto per chiudere questa parentesi, ci sono. Per parlare un po' di SESPS, non so se sapete che cos'è la SESPS. Tipo sexting? No. No, la SESPS è l'acronimo di Situazione Economico Sociopolitica Sanitaria. E visto che c'è una SESPS molto complicata... Lo puoi ridire, scusa? SESPS? SESPS. Mos le SESPS? Situazione. Mos le SESPS, Dio che ha. Situazione Situazione economica sociopolitica sanitaria. Vabbè, sì. No, una cazzata, la dai. Società. Sì, sì, vabbè, no, l'ho coniata io, come è stata una violenta coniazione. Un altro colpo di genio. Sì, no, come l'arte del vizio, per cui... paroliere. È un neopalmerismo. Volevo dare sfondo a una rete di legami e prese per il culo anche per questa cosa qui. No, dai, no, non l'hai coniata tu comunque. Sì, sì, no, l'ho coniata io, insieme a Vominguno. No, non esiste sta parola, è una cazzata atomica che mi sono inventata insieme al grigio. Basta. No, questo, basta. E poi oggi sono tornato. Eravamo io, Vooming 1, il grigio, a Radio Contado e a Gamben. Forte Gamben. E vabbè. Vabbè, questo, quindi, mi stava a parlare questo culo. SESPS? Questo SESPS, visto che la SESPS attuale è molto complicata e molti movimenti contro le devastazioni ambientali e altre situazioni stanno morendo, volevo cercare di impegnarmi a dare voce a tutti questi movimenti grazie a Radio Contado. Va bene, una causa nobile. Sì. Una causa nobile, non ce la prendiamo assolutamente, anche perché, come sappiamo, l'arte del vizio è un programma totalmente inutile. Allora, va bene che così. Sia inutile, ma lo stesso nobile. Io ho da ridire su intrattenimento, dai. Esatto. Siamo per iniziare il primo vero discorso di questa puntata. L'intrattenimento è utile. Se no possiamo citare in causa Zizek e parlare dell'utilità dell'inutile. Cioè, nel senso. Allora, io tirerei in causa le nostre entità all'ascolto. Andate sul pad diretta wombat.vado.li a dirci se veramente l'intrattenimento è inutile o no. Se vi sentite di star facendo una cosa giusta ad ascoltarci, moralmente ineccepibile. Va bene, comunque stavo ascoltando la vostra narrazione, perché dopo l'arte dell'orifizio, che ha segnato una svolta, un cambio di rotta tra ciò che era all'esterno dell'arte del vizio, ma poi ciò che era all'interno, qual è stato il proseguio di questa narrazione della seconda stagione? Il proseguo è stato con la puntata 2 settimane dopo, perché eravamo tutte presi molto bene, e quindi abbiamo continuato così rapidamente senza perderci per la via. Col Patrizio, con l'arte del Patrizio, sì. Abbiamo parlato di lusso. Abbiamo tirato fuori un argomento anche lì un po' scomodo. Sì. Soprattutto scomodo. La domanda: ma voi vi sentite più Patrizio o plebei? Esatto. Sveliamo le nostre carte nascoste, il nostro vero volto. Il capitalismo ci ha un po' confuso su questo confine, effettivamente. Sì, non è banale. Assolutamente no. È stata bella anche quella puntata. Sì. C'era l'imam ospite che continuava a mettere sotto sopra ogni nostra certezza con le sue domande esistenziali. Che altro aveva davvero da ridire su tutto l'imam. Ma peccato che non ci sia stasera. No, dopo il permaloso e il polemico. Sì. Ma è il bello della diretta. E due settimane dopo il Patrizio c'è stato un altro grande, fantastico live, una diretta in cui c'era della musica live. Una in diretta effetti. Speciale proprio. Però noi non eravamo in quella stanza, cioè, eravamo nella stanza di fianco. È stata una diretta concettuale, è stata l'arte del supplizio e abbiamo fatto di tutto per far sì che quella puntata fosse un vero supplizio. Per noi, per voi. Per tutto. Io comunque, sempre a proposito dell'arte del supplizio, l'altro giorno, mentre mettevo a posto, mi è venuto in mente qual è il mio vero supplizio. Ah, perché tu non avevi mai risposto? No, non avevo risposto alla domanda che mi avevate posto, perché ero troppo confuso. Da tutto, dalla situazione. Sì, non mettere ci stavo... a posto camera. No, la cosa che ritengo più fastidiosa, ecco, davvero fastidiosa, è trovare in giro le cazzo di tazzine di caffè usate come posacenere. Ma perché? Dà fastidio. Ma perché cazzo? Si chiama pigrizia. Ma ho capito, ma spegnila sul tavolo. Beh, a sto punto si pulisce meglio. Ma questo, secondo me, questa è una riflessione riconducibile all'arte del Patrizio, cioè proprio proprio a sfregio, tipo mangiare, vomitare e rimangiare. Sì, tipo i cani, sì, una roba del genere. No, e poi ci tipo o i domestici sopra. Quindi sti cazzi domestici / lavatrice. Voi ce li avete i domestici? Ora? No. No, però io gli elettrodomestici intendo. Io per tutta la mia adolescenza sono stato il domestico di mia madre. Confessioni. La domenica mattina mi faceva alzare alle 8, mi diceva: ora devi pulire casa insieme a tuo fratello, se no botte. Però è stato parecchio istruttivo. Esatto, io sono scuola militare, no? Non posso essere troppo in disaccordo con questa cosa. Forse i toni, i metodi, però il contenuto sono d'accordo. No, no, ma anch'io non volevo apparire, diciamo, come plebeo della situazione, come plebeo. No, quello come si dice, che supplisce, no? Quello che subisce. La vittima. E dopo questa marea di cazzate, niente, siamo arrivati ad oggi, cioè basta, è finito tutto. Siamo qui. Abbiamo fatto un excursus, ci abbiamo messo appena 54 minuti. Ma era solo due settimane fa. Tra 6 minuti la vizio finisce. Sì. Era due settimane era fa. Era due settimane fa. Sembra successo di tutto. Vita intensa. Recita momenti. Va bene, ora non sappiamo più che cazzo dire. Però mandiamo un pezzo e ci verrà in mente qualcosa. Se qualcuno ci illuminerà. We'll be right back. E mentre Reverendo sta a fare i suoi tagli didattici sulle puntate, sembra in meditazione. Sì, sì, non ci sta proprio cagando. O forse ci ascolta ma non reagisce. Sta per levitare, sta, guarda, è 5 cm dalla sedia. È su un flying carpet. Allora l'ho trovato il punto che dicevamo in cui... Ok, dove si trovava? In cui svariona 1. Ho vinto io? No, ah, no, non hai vinto come al solito. Okay. A 1:00 e 28. Ok, quindi c'aveva ragione vostro Slim. Però boh, forse a riascoltarla non è che mi è piaciuto. Cioè non è che mi è piaciuto così tanto. Comunque adesso allora, mi dispiace. No, no, effettivamente, perché io l'ho riascoltata quella puntata. Ascoltare la puntata, il podcast, non rende. Non rende come l'abbiamo vissuta noi in quella diretta live, purtroppo. Ci sta. Vabbè, comunque ma adesso seleziono un altro pezzettino, poi acchettiamo tutto per metterlo. Sì, sì, sì, tranquillamente. Io lo metterei solo così per... Cioè, quindi lo vorresti mettere o non mettere? Stavo ascoltando che subito dopo c'è stato un bel pezzo di Diesis, e metterei quello per ricordarlo. Ok. Salutiamo Diesis. Ciao Diesis. Ci manchi. E... ma che volevamo fare? Ora che non sappiamo più che cazzo dire. Ma in che direzione? Mettere un pezzetto, un pezzettino o... cioè, abbiamo appena messo. Ok. E allora... allora cari ascoltatori, siamo qui attoniti a guardarci negli occhi, a vedere se troviamo la risposta negli occhi di... Ma la risposta è il futuro di questa trasmissione, non c'è, sì, è tutto, vero, da scrivere. Ah. Alla fine fondamentalmente questo è un momento di riflessione, cioè tutto questo excursus, questo tornare indietro, cioè non è perché non abbiamo nient'altro di cui parlare, no, è perché vogliamo riflettere su quello che siamo stati per proporre quello che saremo. Le tue profonde riflessioni hanno fatto salire gli ascoltatori da 6 a 7. Chiaramente. Beh, mi piace questo, mi piace giustificare le nostre parole così prolisse. Va bene, ha senso. Anni guardarsi di università hanno insegnato a giustificare l'inefficienza con grandi paroloni. No, ha senso guardarci allo specchio, guardarci un attimo quello che siamo stati per capire meglio quello che saremo, forse. Pregi e difetti della prima stagione, voi che l'avete vissuta tutta. Allora, pregi, tanta gente. Casino di gente. Casino della Madonna, e abbiamo imparato un sacco di cose anche dal punto di vista tecnico. Soprattutto, sì, io ho un casino. Questo mixer, il dottor Io che ci ha veramente fatto scuola. Grazie, dottore. Tra l'altro, io proviamo a fare una telefonatina. Sì, sì, sì, sì, vai, ci provi. Dottore. Intanto rispondiamo alla domanda, però. Difetti, invece, vado. Difetti. Difetti, vabbè. Non siamo. Vabbè, non dici, siamo ancora guariti. Non siamo ancora guariti. E ce l'abbiamo messa tutta per disinfettare i microfoni e mantenere le distanze durante ogni pezzettino, ma non ce l'abbiamo, fatta, no, non ce l'abbiamo fatta. E non ce l'abbiamo mai fatta a non cazzeggiare e a non infamare le istituzioni. Io boh. Ma vabbè, è un difetto. No, non è un difetto. No, vabbè, diciamo un difetto rispetto alla censura che viene imposta, ecco. Però questo è un altro discorso, forse sono troppo... No, sei criptico. Sono criptico. Ok, capisco. No, non volevo essere troppo chiaro, effettivamente. E boh, altri forse che non siamo mai riusciti a fare una Frittole Ska Jazz Ensemble decente a livello, cioè a livello tecnico, di come insomma è venuta fuori la qualità dell'audio, no? Si diceva prima, cosa si diceva prima? È stata bellissima la puntata dell'arte dello spiazzo con uno. No, perché mi veniva in mente uno qualunque, però poi alla fine, se abbiamo riascoltato ora, il reverendo ha ascoltato ora quel pezzo e la qualità audio faceva abbastanza Sì, vabbè, era uno stonato, non tanto la qualità audio. Ok, vabbè, non ho riascoltato con te. Allora, i difetti secondo me erano la registrazione della batteria, che non era così ottimale, suonava sempre culo. Ma che ce li hai i microfoni? Tecnicamente dal culo. No, non ci abbiamo, no, non ce vogliono i microfoni. Esatto, non ci abbiamo i microfoni. E quindi miglioreremo su sta cosa, miglioreremo. Poi magari miglioreremo anche su, non lo so, mettere a posto la regia una volta finita la trasmissione, prepararci meglio, trovare cose un pelo più serie di cui parlare. Secondo me la seconda stagione su questo ha fatto un bel salto in avanti. No, non mi lamento, infatti serie di cui parlare. Con voi io vi devo dire sinceramente grazie. Molto grazie. Lo studio è più ordinato, c'è un clima più accogliente, meno giudicante, più vellutato. Comunque no, davvero. Ma grazie, manca la musica live, grazie Slim. Manca la musica manca live, la musica grande live, difetto eh. Del secondo, della seconda stagione. Esatto. Comunque il dottore non ci ha risposto in tutto questo. Beh, abbiamo riproveremo. Dato un messaggino a vedere se ci risponde. Va bene. Ma intanto vogliamo provare a chiamare Diesis anche. Ah sì, perché no? Intanto sì, mi stava chiamando mia madre. Dalle prossime puntate, come ti immagini il futuro di questa trasmissione? Mi immagino continuare la linea di argomenti oltre la zona di comfort. È una cosa che mi gasa. Penso che gasi anche l'entità all'ascolto, perché le ho sentite reattive sul pad. Vero. E, tuttavia, riuscire a fare un tappetino live e chiamare ospiti d'eccezione a suonare, musica suonata e suonarcele, e penso che sia il grande obiettivo per congiungere passato e presente in questa sintesi. Sì, una sintesi hegeliana dell'arte del vizio. Grazie Slim, ci regali sempre queste terre. Dopo aver scomodato Hegel, veramente possiamo andare a casa. Parlaci un po' di Hegel. E insomma, tu come te la vedi? Voi come la vedete? Io la vedo forse anche il più gente, non so, quello che dici tu, assolutamente, contenuti seri ma non troppo, non ci perdiamo poi negli abissi del... Scomodi, giusto? No, scomodi, scomodissimi pure quanto vogliamo, però ricordiamoci che siamo all'arte del vizio, la cosa bella di questa trasmissione è che fa ride, che ci prendiamo poco sul serio, sì, quindi discorsi seri che si prendono poco sul serio. Certo, come quando abbiamo parlato di torture, ad esempio. Esatto, esatto. Sì. Però quanto più gente qua dentro in questo studio, più gente c'è, più si riscalda, meno si inquina usando le stufette, meno tempi morti, meno sguardi lenti. Stiamo ed è tutto meglio. Sì, secondo me il periodo invernale, cioè la domenica, è devastante. Sì, hanno davvero più voglia di riposarsi, poca voglia di fare festa. È una fase. Quindi, forse, cioè, quindi dici che sarebbe un pregio cambiare il giorno orario della televisione. La Pink ci ammazza. Poi era uscito un altro buon proposito per il futuro, che era quello delle interviste in strada. Ma insomma, vogliamo parlarne davvero? No, però vabbè, potrebbe essere una direzione, quella di appunto andare a sviscerare temi scomodi alla sorgente. Allora, quattro entità all'ascolto che siete presenti con noi. No, otto. Otto, ho letto male io. Quattro più quattro. Quattro più quattro fa otto, incredibile. Allora, voi otto entità all'ascolto state per ascoltare uno spoiler che non uscirà al di fuori di questo momento, dai. È un momento speciale per queste otto entità all'ascolto che si stanno subendo questo caos. Io direi che se lo meritano. Il futuro di questa trasmissione è di uscire oltre le zone di comfort, oltre gli spazi temporali musicali, ma anche oltre le mura di frittole. In una serata, precisamente la serata confusionaria che ha seguito la trasmissione dell'arte del supplizio, le nostre orecchie, le nostre cervelli confusi dal punk hardcore e dal biliardino contemporaneamente alle torture cinesi, hanno immaginato un futuro radioso, un camper, sopra questo camper una radio, precisamente Radio Bomba, con al suo interno delle persone incredibilmente prese bene, che in giro portano l'arte del vizio nelle strade. Sdoganiamo il vizio sui vostri marciapiedi. E per allenarci a fare tutto questo, l'idea più praticabile nel breve periodo è quella di cominciare con delle banali interviste in strada. O fare come si è fatto all'arte del supplizio, cioè portare il nostro banchino, esatto, in dei momenti non troppo hard come un incrocio della tangenziale, però neanche troppo easy come frittole, e vedere che succede. Interagire con l'esterno e lasciare l'esterno interagire con i nostri fauna, cavi. Con la fauna dell'antibagno dell'Emerson. Esatto. Che spettacolo. Un saluto. Un ottimo buon proposito. Allora, io intanto ce l'ho fatta a ritagliare, a selezionare, a capire dove iniziava il pezzo di Diesis, per cui se volete, per fare uno stacchetto, siamo pronti, ve lo posso mandare. Vamos. Ciao. Speriamo. Diesis. Ale. Allora, intanto che i musicisti si decidono. Ero io questo, ero io. Suoneremo un omaggio a Nina Simone. Nina chi? E non solo. Nina Simone. E non solo, perché ricordiamo questa canzone, è stata interpretata da diversi artisti. Però diciamo che lei ci ha messo il suo. Flying high, you know how I feel. Sun up in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Now I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling, I'm scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom, it's mine. Momenti altissimi. Sì, davvero. Grande Diesis. Grande Diesis, la sua voce. Che voce. Sì. Io, beh, l'abbiamo pure provato a chiamare per... Ma non ci ha risposto. Non c'è risposta, no. Comunque, incredibile. Ebbene sì, questa era la prima stagione. Speriamo che altri momenti di questo calibro possano sopraggiungere. Si incalino su di noi, sui nostri Frittole Studios, caldi e freddi che siano. Applausi. Cos'era? Era giugno. Era detto prima, no? Sì, era giugno sì. In effetti. Un caldo giugno. Frittole. Frittole Studios. Andiamo un altro pezzettino, dai, così pensiamo cosa dire, perché no, dai. Sembra che parta. Oh no, mutato. Strano. Già faccio questa vita, non è così più per me. E non stress ogni momento, questa storia da fornire. Ma saluta ma ne manca, io mi affitto una casa. Pure a te che mi inguaiate, non te voglio avere più. Oggi bisogna mi far l'amante, la roba parlano tutto quanto. In da sta casa ci manco solo, se lucca sempre non giusta pace. Oggi bisogna mi far l'amante, ma sento il giovane rindo sangue. Voglio far amore tutti i momenti, senza problemi, senza famiglia. Voglio tornare con mano a chiude, che manicomio che dolore. Sti figlioveri non so buone, sotto l'acqua la famiglia tua. Oggi bisogna mi far l'amante, se non mi mette una buona canna. In da sta casa non so nessuno, manca sto cane faccio paura. Oggi bisogna mi far l'amante, forse si vivono poco meglio. Voglio una casa in coppa montagna, da nessuno mi può trovare. Passata una settimana, sta con me una brasiliana, come buona fa paura, quando santa mi ha sentito, la solista va impazzendo, strana mamma e pure figlia, tutti i giorni era una guerra, ma chi mo facette fa? Oggi bisogna mi far l'amante, la roba parlano tutto quanto. In da sta casa ci manco solo, se lucca sempre non giusta pace. Oggi bisogna mi far l'amante, ma sento il giovane rindo sangue. Voglio far amore tutti i momenti, senza problemi, senza famiglia. Voglio tornare con mano a giorni, che manicomio che dolore. Sti figlioveri non so buone, sotto l'acqua la famiglia tua. Oggi bisogna mi far l'amante, se non mi mette una buona canna. In da sta casa non so nessuno, manca sto cane faccio paura. Oggi bisogna mi far l'amante. E dopo momenti altissimi, sì, con Diesis, ritorniamo dopo Tommy Riccio. Dici Genge, perché ci ha consigliato questa perla? Allora, innanzitutto perché bisogna riportargli un po' la situazione terra a terra. Perché diciamo che questo è anche un po' il mio compito da quando sono qui, portare un po' di disagio e concretezza partenopeo nello SESPS. Questa canzone poi non è a caso, insomma, parla di un tale che è Tommy Riccio, come dimenticarci. che indulge in quello che è un suo vizio. E lo indulge talmente tanto, anzi vorrebbe indulgere nel vizio dell'amante, che del ritornare alla sua giovinezza, talmente tanto c'ha questo bisogno che ci scrive una canzone. E si sente, c'ha lo sentimento. E voi, se doveste scrivere una canzone in cui confessate quali sarebbero i vizi in cui vorreste indulgere di più? Vorreste o solitamente fate? Prima vorreste. Proprio se aveste la possibilità di sbaffare. Se il tempo si interrompesse, non ci fossero nessune conseguenze d'ora per sempre, quale sarebbe la cosa sulla quale proprio indulgereste malissimo? Io sull'eroina. se non ci fossero conseguenze. Io sulle aragostine al pistacchio. Le aragostine al pistacchio sono un grande lusso. Io. Tu Palmi? Ci sto a pensare, perché è una domanda difficile. Massaggia i piedi. No. Io so, mi è venuto in mente prima mentre ne parlavamo, che io il mio vizio purtroppo è a volte stare troppo al computer a guardare cazzate. Vero. Però vabbè, io comunque riconosco che l'internet è stato inventato per il porno e i gattini e ne sono vittima. Sei una vittima dei porno e dei gattini. Possiamo creare una linea d'aiuto. Partire da Frittone Studios per uscire da questa dipendenza. Io penso che se non ci fossero conseguenze fumerei cicchini tutta la vita. Se non ci fosse il rischio di tumore. Ma proprio perché, non so, le mie radici me lo impongono. Tante cose portano al rischio del tumore. Sì, al di là dello stress e tutto il resto, però insomma, se io mi accodo sulle droghe, non sull'eroina in particolare, non è mai interessato, però tante droghe non indulgio perché ho molta paura delle conseguenze, quindi indulgerei tantissimo in tantissime droghe diverse. E una cosa, tutto ciò che è estremo, correre tantissimo in macchina, fare gli sport più estremi del mondo, li farei a palla proprio, ogni domenica. Adrenalina, Gengè. Adrenalina, sì, a tutta. Mamma mia. Brava, bello, non me l'aspettavo. Se non ci fossero conseguenze. Purtroppo ci sono. Via driftare con la sua... Con la macchina, io correrei tantissimo con la macchina. Vabbè, effettivamente però senza provare paura, non si sprigiona l'adrenalina dal sistema endocrino e quindi... Non si prova nemmeno quel senso di... Ecco, scienziato. No, hai detto una cosa giusta però. Cioè, le conseguenze sono quelle che ci fanno paura e ci fanno salire l'adrenalina. Capito. E sarebbe tutto più piatto. Sono quelle che ci fanno eccitare o quelle che ci fanno... O che ci fanno indulgere fondamentalmente. E... Non lo so, io forse non rinuncerei al dover fare qualcosa. Cioè, a fare qualcosa solo perché non ci sono conseguenze. Fondamentalmente sarebbe piatto. Non sarebbe classificabile come vizio fare qualcosa, perché comunque sei consapevole del fatto che ti farà male o comunque ci saranno delle conseguenze, però in quel momento lo fai perché ti va, senza troppe spiegazioni scientifiche senza motivazione, cioè lo fai perché ti va. Che cazzo ne so, cioè, entri in pasticceria, vedi tutte quelle aragostine al pistacchio, cioè non è che lo fai perché ti sfondi. In quel momento non pensi che troppe domande. In quel momento non pensi che 10 euro in tasca. Sì. In quel momento quando ti sfondi di aragostine non pensi che fra 2 ore ti cagherai sciolto, cioè soffrirai di dissenteria. Cioè anch'io, tipo, un mio vizio quando ero piccolo, tipo andare a tutte le feste di compleanno dei compagni delle elementari, mi sfondavo sempre di Coca-Cola e patatine. Poi il giorno dopo, quando mi alzavo la mattina, cioè avevo questi attacchi di dissenteria e dicevo: ma perché l'ho fatto? No, non mi ricordo più come si stava bene, di là, e avevo queste crisi proprio intestinali. E esistenziali. Sì, ed esistenziale al contempo stesso, anche perché, non so, cioè ero lì e dicevo no. Però questo, secondo me, Palmiro ha toccato un punto interessante, cioè che alla fine il vizio è tale se ha delle conseguenze negative, se no non sarebbe un vizio. Quindi la libido, che se diventa un vizio, quello è un pregiudizio culturale. Anche qui io farei delineare da scienziato, io metterei un confine netto. Scienziato quale sei? Che comunque secondo me io classificherei come vizio tutto ciò che è, diciamo, soggetto d'artificio e che comunque è stato inventato da noi oppure prodotto tramite le materie prime. Fondamentalmente ciò che fa parte, diciamo, della natura o che fa parte di te dalla nascita, quindi è concepito nel tuo, cioè è scritto nel tuo DNA. Per dire, non so, non può essere un vizio masturbarsi tutti i giorni oppure tot volte al giorno o scopare. È scritto nel DNA. E la marijuana. Tutti i giorni. La marijuana è naturale. Facciamo un test. La marijuana, sì, la marijuana è naturale, però per dire, non so, il tabacco ad esempio. Bruciarla, no. Comunque già 10.000 anni fa, cioè già anche gli animali si sballano. Però sono cose presenti in natura per provare piacere. E fondamentalmente, cioè, non è che tutti, vabbè, c'è gente che tutti i giorni magari si fuma marijuana, però una volta si fumavano l'erba e basta, per dire, non so, all'inizio dell'Olocene, no? Quando l'umanità aveva iniziato la rivoluzione cognitiva. Ma anche quelle cartine proprio sul fuoco, così, dentro la tenda. Vabbè, così fanno i gatti con l'erba gatta, che quando la sentono perché ha preso fuoco si sballano, però più o meno secondo me sì. Invece tabacco, che cazzo ne so, è... E i videogiochi? I videogiochi, secondo me i videogiochi sono un vizio. Perché? Beh, perché non possono diventare, cioè, dai. Quindi quando è che il piacere diventa vizio? Secondo me il piacere diventa vizio quando il piacere diventa dipendenza. Allora stai accumulando vizio e dipendenza. Sto accumulando vizio di... Sì, perché il vizio fondamentalmente è una cosa che fai abitualmente con piacere, consapevole delle conseguenze alla fine dei conti. Poi questa è la mia opinione, poi secondo me c'è una differenza fra vizio e dipendenza. Allora, cioè, il vizio secondo me è lo scalino prima della dipendenza. Il vizio secondo me è comunque qualcosa che, cioè, il vizio ha un qualcosa di anche di non saper dire di no. Non saper dire di no, però non è così usuale. Cioè, secondo me il vizio puoi farne a meno. Se no, appunto, non sarebbe un... Secondo me il vizio è qualcosa che ti togli, uno sfizio, un vizio. Ma vizio e sfizio sono diversi. Secondo me sono tutti e tre dei confini molto labili. Perché fondamentalmente dici, del vizio puoi farne a meno, ma se è un tuo vizio, no? Perché è una cosa che fai, perché ti piace o meno. Quando è che saresti disposta a un certo punto a dire di no? Poi fondamentalmente lo dico dal punto di vista di uno che è stato tabagista per 10 anni e poi ha smesso per parecchio tempo e comunque ora ho ricominciato. Hai avuto anche il periodo delle slot te, se non sbaglio? No, assolutamente no. No, perché ancora mi prima di parlare di al bar, ancora prima della ludopatia, non sopporto il fatto di dover dare soldi allo Stato per delle cazzate. Beh, il mio vizio è giocare a biliardino, però non è così male. Col tabacco comunque gli si dà un botto. Allora, uguale, sì, scusate, sì, ma a sto punto posso leggere la definizione però che ci dà il signor Treccani? Secondo me la Treccani è un po' troppo totalitaria, perché comunque sì, leggiamola al Treccani e smontiamola tutta. Va bene, dai. Singolare maschile, dal latino vitium, vizio. Incapacità del bene e abitudine e pratica del male. Ah, ecco, proprio così, lapidario. Subito col bene, col male, cioè veramente sta Treccani. L'avevo preannunciato che secondo me era Treccani totalitaria. Vai, continuo. Il concetto del vizio sul piano morale è dunque strettamente correlativo a quello della virtù, di cui costituisce la negazione. Nella teologia morale, ad esempio, i vizi capitali, i peccati capitali, superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira e accidia, quando siano considerati non nell'individualità dell'atto, ma come abitudini. Quindi c'è l'abitudine. Sì. Però secondo me, a differenza della dipendenza, il vizio, inteso come lo intende la Treccani e come inteso un po' nella nostra cultura, è legato a un discorso morale. Cioè la dipendenza, che secondo sì, me però è un po' troppo cattolico. Però questa è la prima cattolica. È la prima definizione. Che tra l'altro dice che questo numero di 7 peccati capitali è proprio definito nella tradizione cristiana con Gregorio Magno, mentre in Oriente... Quanti cioè... danni ha fatto Gregorio Magno? Mamma mia. In Oriente c'è la più antica classificazione di 8. Gola, lussuria, avarizia, tristezza, attenzione, ira, pigrizia, vanagloria e superbia. Comunque, questa era la prima definizione, forse una definizione un po' più moderna, cioè 2. Abitudine profondamente radicata che determina nell'individuo un desiderio quasi morboso di cosa che è o può essere nociva. siamo già diverso dal trapine male. Si avvicina di più alla dipendenza come, sì, come definizione. Ah, c'è anche scritto la masturbazione. Ecco, diciamolo subito. L'onanismo. Cos'è l'onanismo? La malattia della masturbazione. Ah, cioè, quando è stato fatto una grossa campagna contro la masturbazione nell'Ottocento, la parola era onanismo. Grazie di queste perle di saggezza. Beh, secondo me la dipendenza è quando il vizio diventa totalizzante. Proprio la tua vita gira intorno al, al soddisfare quel vizio. Ma in questo caso sembra che no, nelle altre accezioni ci sia un po' abitudine non buona, difetto fastidioso ma non grave, oppure anche voglia, capriccio, per cui non troppo. Più simile a sfizio questo. Sì. C'è pure una terza definizione riferita ad animali, per cui c'è un difetto, imperfezione anatomico, funzionale o di indole e di comportamento. Vizio di forma. Scientifico. Con riferimento infatti a cose, oggetti, materiali, difetto, imperfezione. Anche nell'uso giuridico, vabbè, bla bla bla. Può essere un errore, una scorrettezza, un vizio di scrittura. In diritto, i vizi della sentenza, errori contenuti nella sentenza. Basta, è troppo lunga sta roba. Vabbè, quindi il vizio comunque è qualcosa che ha a che fare con... è qualcosa che non va tanto bene comunque. Comunque io proporrei ai nostri cari radioascoltatori che se vogliono inviarci o scriverci la loro definizione di vizio e... ce la possono scrivere o sul pad alla prossima puntata dell'Arte del Vizio, oppure su frittole@gattini.ninja. O pensare a noi molto intensamente, mandarcela. Sì, fondamentalmente. Telepaticamente. Comunque, ma... no, io non apprezzo questa. Capacità del bene, abitudine e pratica, quello è male. Madonna. Avevo detto che la Treccani era totalizzante. Nelle sue definizioni. Spesa, sì. Ma il dizionario, secondo me, cioè leggere le definizioni da un vocabolario toglie tutto il gusto del dibattito e dello scambio di opinioni, no? Sì, fondamentalmente. Riassumilo tu in una frase, eh? Allora, riassumerei così: mettiamo un pezzettino e se chiude. Vamos. Ma non possiamo mettere il cioè chiudere e poi mettere il pezzo. Allora chiudiamo e mettiamo il pezzo. Vai, illuminaci con questa tua definizione scientifica. Di quale illuminazione scientifica? Non lo so, hai detto tu. Volevi dare una tua definizione alternativa. Vabbè, quella... ci sentiamo domenica prossima. Vai, ciao. Questa cosa. Ecco, adesso i radioascoltatori sono calati bruscamente. No, sono diventati 5 ora. Va bene. Vai, bimbi, un saluto a tutti. Grazie per aver ascoltato il compleanno dell'Arte del Vizio. Ah, non ci siamo neanche sbronzati. Io andiamo a sbronzarci. In realtà. Andiamo. Va bene. Un bacio a tutti. Ciao. Appuntamento a domenica prossima con la seconda puntata del Tempo delle Pere. Forse dovresti chiamarlo il ritmo, visto che abbiamo declassato il termine tempo. Il ritmo delle pere non mi piace, è cacofonico. Buon compleanno, Arte del Vizio. Buon compleanno a te. Saluto ai P38, scusateci. Si affida alla Renault 4, versione rossa, perché a volte l'unica cosa di cui si ha bisogno è spazio, tantissimo spazio. Oh oh oh oh, papà Dimitri al beat. Voglio una pistola e un beat di Dimitri. Ok, ti metto dentro una Renault 4. Brigate rossa scritto sul contratto. Presidente, non mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Ti metto dentro una Renault 4. Brigate rossa scritto sul contratto. Presidente, non mi sembra stanco. La metto dentro una Renault 4. Ho incontrato Bruno Vespa, io ho sparato alle gambe. Mi diceva buonasera, ma in un lago di sangue. Di 38 è la mia gang e vaffanculo al resto. Produzioni Dimitri, guarda il buio pesto. Fucile puntato sulla famiglia del premier. Signor Draghi, siamo a casa, avanti, venga a vedere. Questa vita mi fa schifo e non ne voglio sapere. Cago